camminare per la via dove tutto sembra uguale e vedere sulla gente un sorriso indifferente e niente che conti niente. Uno sguardo, una parola, una mano che mi sfiora, ma la mia voce nasce e muore in gola e la mia vita se ne va. Con l'amore dimenticare il viso mio.